professor nulla tiene celato. Un Dio mi dammi, è cosa più prudente. Sensori, sì. Qual è il vostro disegno? A norma degli eventi uscir di stato, di starcela ancora. Mia sorella! L'attavanti! Sì! Ascoso un lieve abbigliamento, blasso dall'altare, vesti pieno ventaglio. Appena il brun indosserò quei panni, or comprendo quel fare circospetto e il pregante fervore in giovin donne bella m'avrea messo in sospetto di qualche occulto. Or comprendo, era amor di sorella. Sottrarmi a Scarpia, scelerote. Scarpia, bigotto, satiro che affina con le devote pratiche la foia libertina e strumento il lascivo talento, fa il confessare il boia. La vita mi costò. Fino a notte mal sicuro fermo al sole la cappella mette un orto mal chiuso, poi c'è un canneto che va lungi pei campi una mia villa è nota, ecco la chiave innanzi a sera io vi raggiungo portate con voi le vesti femminili. Vengossi per una monta in sentiero e deserto. Addio. Se urgisse il periglio, correte al pozzo del giardino. L'acqua è nel fondo, a mezzo della canna un piccio il varco guida ad un antro suo. Rifugio impenetrabile e sicuro. Recano del castello. Scoperta la bomba, or scarpi i suoi sbirri scrizzaglia. Addio, e poi però, stare all'erba, con luce ti salva una taglia. Mamma Giubilo, eccellenza, non c'è più. E son dolente, di con Cristo mi screlente. Guadagno un'indulgenza. Tutte qui le canto, io stesso, di sacrestia, voi sapete, buona parte, scelerato, buona parte, e metti su, fu spennato, sfaccellato, e piombato a pezzo, scelo di e venivi cappadura. Torna giunse la notizia! Sente, sente la vittoria! E questa sera, gran fiacconata, figlia di gara Palazzo Farnese, ed una apposita nuova cantata con gloria tosca. E nelle chiese igna il signor. Corri aggressivi, non più clamor! Via, via, chi si mette?